Senta, ma lei tutte queste storie di rubi, donne intorno a Berlusconi, insomma, esagera un po' il premio, no? No, io penso che esagera la gente, Come perché esagera? non si preoccupano delle cose serie e vanno a vedere le donne che vanno con Berlusconi. Io vorrei sapere chi è quell'uomo che Sì. non ha le donne. Non lo so, Sono tutti che le cercano, solo che forse lui lo fa sapere. Ma chiunque, non ci sono donne che non hanno le corna, come ci non ci sono Beh, uomini che non no, hanno le scusi, corna. lei No, suo suo marito. marito non risulta, almeno agli A altri. mio marito non risulta, ma se risultava io gli pigliavo le valigie e gliele mettevo alla porta. Era bello Appunto. fare. Era un altro stile, Allora appunto. lei dice non si doveva, anche suo marito era come gli altri, ma non lo faceva sapere. Certamente, no, io penso che non c'è nessuno possibile che lui è talmente solo, quest'uomo, che si può concedere anche i lussi di avere accanto delle donne, purché faccia il proprio dovere. Siccome mi sembra che il proprio dovere dalla mattina alla sera quest'uomo lavora seduto a tavolino per risolvere i problemi italiani, se si prende il lusso di stare con una donna, io non riesco a capire che peccato fa.